la camera, ecco, è quella che avevo smontato. È una taglia, infatti, non taglia, di quelle che vendevano, no, costavano 50 soldi a bilanciare con le camere, con le camere, ecco, capito. Ciao, buttate in campagna, poi il tempo, non buttate in mezzo alla cosa, già ciappata, poi ho preso le gambe di palazzo. Con le 4.000 c'è la camera, ecco, dietro la camera paracchina fissa, come la vedi con il 2009, solo che c'è l'estero e c'è la camera, ecco, dentro nella uguale di vinti da quella che c'è stato un, ecco, precisa. Già va bene, fa molto più bene la scettina, va bene bene. Sì. Beh, ma è molto, sì. Sono perché esce in macchina questi giorni. Ah, io sto facendo sempre il motore. Sai, il tempo sta iniziando a passare, le temperature. E si riuscirà in macchina di nuovo, no? Non lo passerò più l'inverno con le due ruote, non lo sarà più, però. Assolutamente no. Quattro ruote, bella saccarata, che la moto è bella, non ho... Ma poi te ne pigli male, è vero, va bene. Non dirò a me, appena te ne vedo qui, anche in campagna, con i scambieri, vado male il collo e non riesco neanche a piegarmi dopo. C'ho dolori muscolari, dolori articolari, quindi la moto mi sa che mi ha abbandonato per sempre. Se no, volevo guadagnare sempre il biglietto di Audi, oppure roba per i dolori articolari. La moto si deve usare quando è nella stagione sua, quando la moto non si può usare, si deve mettere da parte, ci sono i tracce, ci sono, se non c'è una vettura c'è il tram, e se non c'è il tram ci sarà un'attacca sola, però la moto si deve parcheggiare, no, e rischia di fermare, perché finché si è giovane tutto va bene, non si risente niente, però con passare degli anni e poi gli acciacchi sono furia. Io dirò a me quanto ho preso io con il moto, ma io tornando da Pizzicotto, dovevo pigliare la mia 25, mi sono fatto un gavettone, io ho preso la moto, e quello che mi ha sottratto mi ha fatto il lavaggio automatico, mi ha fatto, ragazzo, si è fermato che andava la faccia interna, dice, ti posso aiutare? No, io ho permesso, già bagnato, mi sono messo adesso lo shampoo, che mi dà poi avere. Quindi le montate vanno bagnate, pantaloni, montate, tutto bagnato. Credo, ma non passo le vetture così io. Un problema, no, io adesso devo dare la calmata, c'è le tacche oro, no. La moto è bella quando sono giornate belle da poterla prendere, quando non se ne può fare a meno, si lascia lì e basta, e non se ne parla più, non è così. È così, diceva di tardi, non è questione di abbassi, quando ti piglia quattro ore ti prende il vento, freddura e cose, non ci sono più voti che contano, poi quello ti entra nelle ossa, non te ne accorgi adesso, ma con il tempo poi te ne accorgi, se mi stai confermando che adesso ti stai accorgendo tutti i dolori, quale sono le moto, ma è così. Ma io fate l'aria fredda e proprio le braccia, uno stai guidando, entra dall'ingresso delle braccia, entra l'elenco e va alle spalle. Quindi se lo vedete uno per leggere in moto, così fare attaccato al petto, capito? Quindi ovviamente la voluttura che sudi, si è sudato, c'è la maglietta leggermente bagnata, ti vedi un po', ok? Non sei morto. Sì, lo ferma. Beh, dopo viene approfitto. Gli faccio la commissione che devo fare, se ci si è più tardi ci può piacere scambiare un altro questo, se no ritiriti su per salutare da te in guerra, io momentaneamente rimango in stand by e vado a fare dopo, date cose belle, a più dopo se coincide. Ciao. Via, ciao, ci sentiamo. Stiamo bene, buon affare, se mai ci sente un po' dopo là. No problemi. Ciao, ciao, buon ciao, ciao. Non so se mi ascolti, tu? Attento, compugno, sì che ti ascolto. E se passa, Santiago 2, alla sepolta terminata, non mi sei? Compugno, senti Rita. E già ti ascolto, e tu mi ascolti a me, mi ascolti? Io qua percorrendo la quattro corsie. E adesso già ti sento bene, quindi sei un punto più alto adesso. Se facciamo la quattro corsie per dal vero a Sassari, a Puglia, che mi senti. Poi c'è questo mi proprio di fronte a me, ce l'hai quasi, dove c'è l'ultimo ponte, e c'è il discesone per Monte Oro, lì utile a craccarla. A calmare, a farvi un po' di cose di acqua, a rinfrescarvi, a farvi un po' di si dice, a buona temperatura. Sia positivo. Meglio così, almeno che abbronzi. Ancora bisogna andare al mare fin quando c'è sole. Quando smettere di andare al mare. C'è acqua da fino a settembre, tutta la fine, e vedrai che a ottobre c'è un caldo quest'anno. Speriamo, noi ne approfittiamo nelle belle giornate. Perché non è serie tipo 50? No, non è serie, siamo solo fine settimana, dai, partiamo dal venerdì, adesso questa fine settimana siamo partiti da sabato mattina e niente. Pensavo che avevi fatto un mese di ferie e invece fai solo venerdì, sabato e domenica. Vabbè, lo stesso, se sei in campo era voi, tre giorni. Almeno ti vedi, c'è una casetta proprio di tappi e viaggi. Positivo, no, le serie le abbiamo già fatte, adesso ce ne facciamo altre da mercoledì. E io così. Beh, tanto che sei, mi piace viaggiare in notte. Io più, mi è piaciuto la notte. A viaggiare così non mi piace. C'è un amico, c'ho io che si è comprato la notte sempre in giro. Con suo 50. Positivo, bisogna approfittare adesso che siamo giovani, se no guai. Allora, adesso bisogna approfittare quando sei giovane, poi quando diventiamo 70 anni, 75 anni, butti a casa a creare i punti. Allora, se no poi se siamo troppo vecchi non si può andare in giro, invece adesso ne approfittiamo. Aspetta, arrivo subito. Rita. Via. Buonasera. Buonasera, chi è? Mi sembra Gigi Vulcano. Ma ti sembra o sono? Sì, sì. Perché è strana la modulazione? Ma negativo, è un po' strano. Vabbè, di mezzo come si è limpato, come si è entrato. No, la radietta stavo... che sto provando. Ehi, esce benissimo. Ma positivo, non pensavo che non andava bene. Ma no, va più che bene. Penso che siamo una di quelle radio più vecchie di te. Questa è più vecchia di te, Ria. Ma vero? E penso proprio di sì, Ma età questa, penso che ci abbia più di 30 anni questa radio. Allora sì, no, vabbè, allora io sono più vecchio. No, più di 30 anni hai detto. Sì, penso di sì, più di 30 anni c'ha questo, c'ha oltre 30 anni, dai. Ho 40 pure. Andiamo bene, aspetta che apro il cancello. Non c'è Stefano, ah, Stefano guidando sta. Sì, buonasera a lui. Yeah, ciao Ste, ma tu stai guidando Ste? Sì, in caso tocca a me a guidarlo. Ma positivo, positivo. Sfrutto la macchina nuova, invece non li guida lo stesso. E la macchina nuova? Sì, ho detto, molto il camper nuovo, invece non li guida lo stesso. Ha cambiato la mente il camper? E questo c'ha 7 mesi, 8 mesi c'ha. No, positivo, positivo. Ma ha comprato nuovo o usato? Sono X Prova, erano quelli che portavano le fiere per fare le dimostrazioni, mi capisco. Sono quelli che portavano nelle fiere per farli vedere come dimostrazione, da. Ho capito, ho capito. Ciao Luigi, salutoni. Ho capito, allora l'abbiamo preso noi. E va bene. Luigi. Ciao Coppo. Ciao, saluto di lui, stai ascoltando. Ma sotto lo dico, dove sei? Non sei a casa. Cosa? Dov'è? Se sei pazzo, dove sei? Non sei a casa tua. Sì, appunto, era a casa mia, all'inizio ti ascoltavo bene e poi adesso ti ascolto più, non so perché, anche a coso, a Stefano. Sì, Santiago 3, contate qualcosa. Avevi Santiago 3, ma non sei, non lo segnale tu, quindi ti devo segnare il mio nome. Non lo so, c'è qualcosa che non va allora. Contate la prestazione. 9:10 passa. Oh, che è Gianni questo? K, buonasera, quasi 9:10 Gigi. Sì, ciao, ciao. 9:10. Ma sai cosa è successo qua? Dove sei? C'ho questo apparato a testa in giù, gamolo. Oh, adesso me ne sono andato. Come può essere successo? A testa in giù, come parlavi quasi. Ma non mi sono mai piazzato, gaffolo. Al contrario, la sto parlando in su e la cosa... infatti guarda, vediamo che cavolo è questa cosa. Ciao, comunque, tu di buonasera. Ciao, ciao, cosa vede, lui? E che parroccia, dai. Ma non lo so, ma sto uscendo male, perché già questo? È un apparato vecchio, molto antico, No, da parte mia esce benissimo. Non c'è altro. È chiaro la modulazione è tutto. Quello che lo dite pure a capimenti 3. gengilli vecchi, il toccarci con 5-6 canali, anche già ne ho avuto parecchi antichi, lui appassionato, io lo ricordo come io. Ma lui sapeva che mi ha soddisfatto, la verità è il presidente dell'R7 40 canali, perché era fenomenale, come ho vicino di casa, lui al primo piano, io all'ultimo, io ad uno stimo per niente, ma lui a me con compiti per canale, cosa detta è? E io avuto anche il compiti per 2024. Figurati con Giuseppe Altamura quando c'era l'apparecchio furato a numero di quelli perché la fase non per sentirmi, non dovevo attaccare le lineare, mi faceva un 31 solo due, ma non mi sentiva. Comunque la cabriolette è un apparato buono, è uno di quelli nominati di vecchiaia. Sono una buona varia, c'hanno, sono belli, se riescono a vedere ci pompano ancora di più. Non è già bellino quella parata. Esce bene. Cos'è che ho fatto? Gli ho cambiato il connettore dello spinotto. Capito, gli ho messo quello, quegli attacchi normali del Midla, delle, capito, quella 4 punte, così gli ho fatto. Sento quelli attacchi che rompono le scatole e basta. No, quello lì va bene, è un bel apparato. Aspetta. Gli ho attaccato quel microfono famoso, quello normale, quello della DM, come cavolo si chiama, capito? DM 1000? No, non è il 1000, no. Questo cos'è? Aspetta, vedi. Ah, quello normale, ho capito. 6 DM 6190, quello l'avevo preso a chi l'avevo preso, e pare che anche tu ce l'avevi quello lì. Io ne ho due. Io uno l'ho preparato per questo apparato qua, ci va benissimo. Per il Galaxy. Va benissimo, poi ci metti dentro e una bomba, esce benissimo, mi hanno detto che l'hanno benissimo. Ma c'è certi apparati non si adatta, lo stesso. So io di questo l'ho provato altro della verità, gli ho cambiato le connessioni dopo pranzo e adesso ho provato la prima volta con voi a parlare. Ho provato questo microfono e ho provato altro della verità. No, esce bene, bene, proprio chiaro e qua. Positivo, è pesantuccio, diciamo l'altoparlante grande, e va bene anche l'altoparlante suo. Sì, già lo conosco, la cabriolette è uno degli apparati nominati della vecchiaia, anni 70. È positivo, ma me lo tengo, me l'ha regalato questo Salvatore della verità, me l'ha regalato e me lo tengo. Gappa, anda bene. Oh, io non l'ho più visto per niente, prima veniva in questa chiesa qua di fronte a casa, non ha più frequentato forse. Ma non c'è più qua a Sassari, lui vive di casa nel pari abitaggio, capito? Allora, è stato un ricordo di Allura che abita di casa. Appagata. Vabbè, ma lui qua era presidente, mi pare proprio. Era uno dei pezzi grossi di questa chiesa evangelica che c'è di fronte a casa. Ma adesso è là, non l'ho più visto io qua, capito? Se n'è andato da qua, ha svuotato la casa, capito? Se n'è andato lì. Appagata. Vabbè. Speriamo che questo armizio. Adesso facciamo tutto lavoro lì, il lavoro c'era tutto lì. Fatto bene. E uno segue il lavoro, ma non penso che qua non ne ha messo perché qua, quando io andavo era sempre pieno di enti, e chi riportavamo a Turindiri e anche nel paese veniva. C'è rettami, lasciate in bianco dove io. Ritta. Se era andata più il cancello, Ritta ci si. Scusate un attimo, sto guardando questi bambini, ma mi sono uscita dalla trappa, scusate un attimo. Stava a capo casa sua, mezzo pure di Arvallo, sono Luigi. No, sono dei nipoti. Sono sempre corrente, fende in chi. Magari si scolle la strada e per cosa. Mi passa la portata.